Deja Vu su CRM Happy Radio. All my life and the hereafter I've never seen someone like you. You're a knife sharp and deadly, and it's me that you're cutting to. But I don't mind, in fact I like it. Though I'm terrified, I'm turned on but scared of you. Le 10.22, sempre CRM Happy Radio, siete sempre all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano. Ancora buongiorno, bentrovati a tutti i ritardatari cybernauti che ci ascoltano al www.crmhappyradio.it. Seguiteci e scriveteci anche su Facebook e al nostro sito www.crmhappyradio.it, dove seguite anche le repliche in podcast dei vari appuntamenti, dei vari programmi con i nostri collaboratori. E 335-56-37251 per mandarci messaggi tramite WhatsApp. Anche questa mattina, come dicevamo prima, una splendida giornata, c'è già un sacco di gente abbronzata in giro, eh? Come fanno a trovare tutto questo tempo per andarsene al mare? Dico io. Vabbè, comunque sia, almeno qua in Sicilia il sole picchia più forte, quindi ti abbronzi anche se vai a farti un giro in macchina o semplicemente facendo una camminata di mezz'ora già ti abbronzi se stai sotto al sole. Per fortuna siamo fortunate, dai, diciamocelo, è già in questo periodo di maggio abbiamo un bel colorito, cominciamo ad apparire tutti più belli, tutti più splendidi, grazie appunto alla bella stagione che sì, da prima porta un po' di allergie varie, un po' di problematiche su come vestirsi, perché appunto c'è sempre comunque sì, il sole, ma anche un venticello che certe volte insomma ti fa beccare delle influenze, dei mal di gola, delle cose che non sono piacevoli, insomma, se parliamo di salute. Però poi ci sono tante altre cose positive che sappiamo tutti quanti, non sto qui ad elencarle, per cui meglio sempre la bella stagione piuttosto che le stagioni fredde come l'autunno o l'inverno. Lasciamo stare l'autunno, che qui alla fine autunno non è, perché poi si passa veramente dall'inverno all'estate e viceversa, non ci sono più le mezze stagioni. Vabbè, bando alle ciance, la musica di Nelly adesso all'interno di Déjà Vu con Just a Dream. Thinking about me, thinking about us, what we gon' be, open my eyes. Just a Dream, il singolo per Nelly, targato 2010, sembra ieri che è uscito, invece già sono passati 4 anni. Invece questa è fresca fresca, e lei è Giorgia, Non mi ami. Spero che poi non ce l'avrai con me, ma non sono io l'immagine che hai di me. Non vedi che cerchi il controllo sui pensieri e su me. Déjà vu su CRM Happy Radio. It's been a while since the two of us talked, about a week since the day that you walked. Knowing things would never be the same with your empty heart and mind full of pain. So explain to me how I came to this. Take it back to the night we kissed. It was Dublin City on a Friday night with vodkas and coke. I was getting this all night. We were sitting with our backs against the world, saying things that we thought but never heard. Oh, who would have thought it would end up like this? Where everything we talked about is gone, and the only chance we had for moving on was trying to take it back before it all went wrong. Stay up all night, best friends, yeah, talking till the daylight. Took the joys alongside the pain, with not much to lose, but so much to gain. Now you're hearing me, cause I don't wanna miss it. You adrift on memory bliss. It was Grafton Street on a rainy night. I was down on one knee and you were mine for life. We were thinking we would never be apart, with your name tattooed across my heart. Oh, who would have thought it would end up like this? Where everything we talked about is gone, and the only chance we have of moving on is trying to take it back before it all went wrong. Déjà vu su CRM Happy Radio. Sì, siete sempre all'interno di Déjà vu su Facebook, su internet. Adesso arriva Elisa, un filo di seta negli abissi. Cosa c'è dietro a quell'ombra? A quella paura che ti fa cambiare faccia e fa dire quello che non si pensa. Dove si è rotto il filo di seta che ci univa e scendeva giù, giù, giù, giù negli abissi e dall'universo. Scendeva giù, giù, giù negli abissi e andrò a cercarlo adesso io. Se solo sapessi dov'è, dove ho perso la mia pazienza. Ho lasciato la speranza per trovare indifferenza. Capito bene, tu non vuoi venire a cercare insieme, a cercare insieme, insieme, insieme, dove si è rotto il filo di seta che ci univa e scendeva giù, giù, dov'è, dove ho perso tutto il coraggio, la grazia che ho imparato, l'amore che avevo dentro, could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me, you got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me, and you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. Got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't it, but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you all figured out, you need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are, who do you think that you are? I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used to follow my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me, you got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me, and you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. You got your highbrow switching your walk, and you don't even look when you pass by, but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you all figured out, you need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are, who do you think that you are? You got no doubt, but we all see you got your head in the clouds. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me, you got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me, and you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler. Mike Posner, Cooler Than Me, il singolo che abbiamo sentito, un altro successo di qualche anno fa che ci piace ogni tanto riproporre, visto che è molto energico, emana positività, e noi tutto quello che emana positività noi ve lo mandiamo musicalmente parlando, E vi parliamo invece adesso di una novità tecnologica che arriva a Roma, a Proda Roma, la prima stampante tridimensionale che genera, pensate un po' che cosa, cioccolato, sì, avete sentito bene, proprio da mangiare. Di solito per comprare una torta o dei cioccolatini si va in pasticceria, al forno, al massimo al supermercato, no? E di certo a nessuno sarebbe venuto in mente di andare a chiedere una barretta di cioccolato in una stamperia in 3D, e invece da oggi si può. È l'invenzione di quattro ragazzi del sud Italia che hanno aperto una stamperia tridimensionale tra il Pigneto e Tropignattara, si chiama così, un quartiere in fermento dunque, per questa novità. L'innominazione è stata casuale, più unica che rara, nel fare formazione di questa cosa che è davvero eccezionale. Questi ragazzi di un nuovo store a Ragusa, proprio qui in Sicilia, hanno pensato di trovare questa idea ingegnosa e provare dunque a stampare il cioccolato. E il sogno è diventato realtà, ci hanno messo dentro proprio tutta l'inventiva che potevano avere, e un cacao commestibile creato da una stampante vera e propria costruita da zero. Non è difficile pensare all'azienda che si è prestata alla sperimentazione, alla cioccolateria Buonaiuto, la più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia, tra le più famose al mondo. Ci hanno dato informazioni sulle temperature e sulla pasta, spiega Antonio Alliva. L'impasto del cacao di Modica è quasi argilloso e se si presta benissimo ad essere stampato, fra virgolette, sia così. E l'idea è quella di diventare fornitore per pasticcerie o creare prodotti dolciari, anche perché i costi sono più bassi, dato che si risparmia in tempo e in forza lavoro. Ecco, servita dunque la prima stampante al mondo che genera cioccolato, ed è proprio a Roma. Pensate, andate in stamperia, mi stampi una bella barretta di cioccolato di 500 grammi e il gioco è fatto. Ma che roba, eh? E chissà quante altre cose dovranno inventare straordinarie come questa. Nel frattempo di musica nuova se ne inventa tanta. Tiro Mancino. Guardati nei tuoi occhi, ora c'è una nuova luce. Dal mio letto ti rivesti e te ne vai, tanto poi tornerai. Io rimango qui a scrivere una nuova canzone. Lo sai che tutto quello che so fare non puoi chiedermi di più. Ora che siamo liberi così di sceglierci ogni volta invece che lasciare troppe cose già decise, scegliere per noi, che siamo liberi da qui, di lasciarci andare e poi riprenderci, perché l'amore non finirà, se anche libertà. Sembra senza uscita, devi guardare bene in fondo alla tua vita e chiederti se è proprio come la volevi tu o ti aspettavi di più. Ma siamo liberi così, e ora per risponderti, se mi cercherai potrei raggiungerti mentre giri un altro film. Déjà vu su CRM Happy Radio. Sai che musica è il dolore, sai che musica. musica e il rumore, sai che cosa c'è? Sto bene, sai che cosa c'è? Sto male, non mi chiederai permesso, se è concesso. Lascio il tempo, le promesse, lascio a te le tue certezze, la chitarra sopra il letto, i versi che non hai mai scritto, non ti chiederò permesso. Preferisco bruciarmi da solo che assecondarti adesso. Déjà vu su CRM Happy Radio. Myself to take me where you be, 'cause girl I want you right now. I travel uptown, town, I travel downtown. Wanna have you around, round like every single day. I love you always, wait, I'll meet you halfway. Right at the borderline is where I'm gonna wait for you. I'll be looking out, not in day. Took my heart. let's cross the bridge to the other side. Just you and I. Just you and I. I will fly, fly the skies for you and I. For you and I. I will try until I die for you and I. For you and I. For you and I. I want Deja Vu su CRM Happy Radio. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Note di un grande successo dei Police, un rifacimento di questo singolo fatto da Puff Daddy insieme a Faith Hill, I'll Be Missing You, sulle note, come dicevamo, di un singolo dei Police, Every Breath You Take, che vi ricordate? Una canzone che ci piace ricordare molto spesso all'interno di questo appuntamento insieme a Mary Catalano, che è entrato nella seconda ora, Deja Vu con voi fino a mezzogiorno, la mia voce ad accompagnare. parlarvi è la musica di oggi, ma anche del passato, come si nota anche dalle note che ancora sono in sottofondo. Ci sentiamo fra pochissimo e continueremo con una carrellata di musica ancora fino a mezzogiorno, come dicevamo. 335-56-37251, scriveteci su WhatsApp. Déjà vu su CRM Happy Radio. To myself, I did it to myself. Trading in my forever, but I did it to myself. I did it to myself. When I get too close to my someday, every time I blow it away, praying I will come to my senses, won't be my own worst enemy, and I'll put my heart back together. Together. To myself, I did it to myself, but I won't stay here unforgiven. When I did it to myself, I did it to myself. When I get too close to my someday, every time I blow it away, praying I will come to my senses, won't be my own worst enemy, and I'll put my heart back together. Adorante per Anastasia Milano, dove la cantante ha incontrato la stampa, ma soprattutto i fan, in occasione del lancio del suo nuovo album Resurrection. Tra momenti emozionanti, battute spiritose e ricordi della sua carriera, Anastasia ha anche parlato dei momenti difficili passati di recente. Quando stava preparando questo album sentiva che rappresentava la sua resurrezione, ha detto, ed è contenta di essere tornata, ovviamente, e questo è un grande successo. Stupidly the Thing è il singolo che lancia l'intero lavoro, che si chiama appunto Resurrection, che ha molti significati, due dei quali sono intrecciati a filo doppio con il privato di Anastasia. Intanto, tempo fa, le è stato detto che nella mitologia greca il suo nome significava proprio resurrezione. Inoltre veniva da un periodo durissimo, difficoltà personali, e poi l'anno scorso, quando stava lavorando all'album, anche la malattia, appunto il cancro, quindi non sapeva cosa si doveva aspettare, ma sentiva che questo sarebbe stato il lavoro della sua rinascita, e a quanto pare sembra proprio che sia così, perché già dal primo ascolto, dal primo singolo, si evince vince questa cosa. Anastasia sarà protagonista il 1 giugno all'Arena di Verona in una serata evento organizzata per festeggiare i 100 anni d'opera più uno. Per lei sarà la prima volta nello storico anfiteatro e si esibirà accompagnata dall'orchestra e dal coro dell'Arena. Per quanto riguarda i pezzi che canterà, non vuole rivelare nulla. Dovete andare a vederla assolutamente se volete appunto vedere un po' le novità di questo ultimo album. Intanto abbiamo appunto l'occasione di sentire in questo periodo proprio il singolo di lancio, Stupid Little Thing, che abbiamo appena finito di ascoltare, e quindi siamo contenti per ora così. Nel frattempo ancora musica nuova, un vecchissimo successo ripreso e fatto nuovo dunque dai Negramaro, Un amore così grande 2014. Ad ogni rincorsa esplode una voce, chi grida vittoria non sa darsi pace, disegna la storia, solo chi è capace. Io corro più forte, raggiungo le stelle, le rubo la luna, diventano belle. Per farti un vestito azzurro che splende, negli occhi e nel cuore l'Italia si accende. Gli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi la tua si accende. Così grande, quale amore più grande di quello di una mamma? E fra poco ci appresteremo tutti a festeggiarla questa mamma, e proprio l'11 maggio prossimo sarà appunto la festa della mamma, la festa della mamma che è una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo. In Italia accadeva regolarmente l'8 maggio fin quando non si decise di fissarla alla seconda domenica di maggio come negli Stati Uniti. Costituisce una festa molto antica legata al culto della divinità della fertilità degli antichi popoli politeisti, che veniva celebrato proprio nel periodo dell'anno in cui il passaggio della natura dal freddo estatico inverno al pieno dell'estate e dei profumi, dei colori, insomma, era più evidente. Con l'andare del tempo questa festività dal tono religioso si è evoluta in una festa commerciale, talvolta anche in sagra. Negli Stati Uniti, nel maggio del 1870, Julia Wurzow, attivista pacifista e abolizionista della schiavitù, propose di fatto di istituire appunto la festa della mamma come momento di riflessione contro la guerra. Nello stesso anno negli Stati Uniti ci fu la proposta di Anna Jervis, che era molto legata alla madre, un'insegnante della Andrews Methodist Church di Grafton, e dopo la morte della madre Anna si impegnò inviando lettere a ministri e membri del congresso affinché venisse celebrata una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. Questa festa doveva rappresentare un segno d'affetto di tutti e tutti quanti nei confronti della propria madre mentre questa era ancora viva. Grazie alla sua tenacia e determinazione la prima festa della mamma fu celebrata a Grafton e l'anno dopo in Filadelfia. Era il 10 maggio del 1908. Anna Jervis scelse come simbolo di questa festa il garofano, fiore preferito dalla madre, o rosso per le mamme in vita, bianco per le mamme scomparse, e questa è un po' la storia. E fu ufficializzata poi nel 1914 questa festa della mamma dal presidente Woodrow Wilson con la delibera del congresso di festeggiarla la seconda domenica di maggio. E quindi appunto anche quest'anno succederà che proprio la seconda domenica di maggio, ovvero l'11 prossimo, festeggeremo tutti quanti la nostra adorata mamma. Ok, non dimentichiamocelo. Nel frattempo continuiamo ad ascoltare la musica, e questa volta Lenny Kravitz con Fly Away. Sky, so very high, just like a dragonfly. Deja Vu su CRM Happy Radio. Cammino su queste dannate luole, vedo le cose che sfuggono dalla mia mente, niente dura e questo lo sai, però non ti ci abitui mai. Quando cammino in questa valle di lacrime, vedo che tutto si deve abbandonare, niente dura e questo lo sai, però non ti ci abitui mai, chissà perché. Perché? esiste niente, solo del fumo, niente di vero, niente dura e questo lo sai, però tu non ti arrenderai, chissà perché. Vasco Rossi si prepara per i 7 concerti che terrà quest'estate all'Olimpico di Roma il 25, 26 e 30 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 4, 5, 9 e 10 luglio. Meta prescelta per ricaricarsi è un resort in provincia di Brescia in compagnia di sua moglie Laura, sposata nel luglio del 2012 dopo 25 anni di vita insieme. Sole, coccole, sport per il comandante, fra virgolette, che appare più in forma che mai, e nel frattempo noi siamo impegnati all'ascolto del singolo nuovo per lui, Dannate Nuvole, e attendiamo dunque questi appuntamenti con appunto i concerti 7 esattamente che terrà quest'estate. Nel frattempo mancano 20 minuti a mezzogiorno e quindi al termine di Déjà Vu, l'appuntamento del martedì e del giovedì insieme a me, che sono sempre Mary Catalano e che vi parlo ai microfoni di CRM Piredio. Seguiteci su www.crmpiredio.it oppure su Facebook e mandateci messaggi su WhatsApp al 335 56 37 251. We'll be right back. vetri sporchissimi di un'auto blu, blu come i tuoi occhi, a cui raramente sfuggirò. E anche se fosse Malika Ayane è il suo singolo di 2 anni fa, molto carino, che si chiama Tre cose, qui su CRM Happy Radio. Tra poco ancora musica, ma facciamo una brevissima pausa e poi è sicuro un altro bellissimo singolo scovato dal passato, un passato un po' più lontano rispetto a quello di Malika Ayane, e poi la chiusura di Deja Vu. Ma è ancora presto, aspettatemi lì. Deja Vu su CRM Happy Radio. Something real, wide awake, and I can see the past. tell us right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. Lontano 1997 veniva fuori Natalie Imbruglia con questi occhioni grandi e questa bocca prosperosa, insomma un bel faccione, un bel faccino, insomma bella Natalie Imbruglia, un'artista tutto tondo, anche perché brava anche a recitare, ma adesso che fine ha fatto Natalie Imbruglia non ce lo chiediamo, però nel frattempo ogni tanto ci piace ricordare il vecchio successo che l'ha resa famosa, ovvero Torn. Siamo in chiusura di questo appuntamento di oggi, giovedì 8 maggio, insieme a Mary Catalano e quindi con Deja Vu, e chiudiamo con i Black Keys, Fever. finisce così un altro appuntamento con Deja Vu qui su CRM Happy Radio insieme a Mary Catalano, a tutti i cybernauti che mi hanno seguito al www.crmhappyradio.it. Un saluto enorme e vi ritrovo, mi auguro tutti quanti ancora una volta qui a martedì prossimo, sempre dalle 10 sera a mezzogiorno. Continuate a seguirci dovunque siete, in qualsiasi momento. Sapete che ci potete contattare sul web, scrivendoci anche su WhatsApp 335 56 372 51, oppure se volete passare il tempo ascoltando le repliche, sapete che ci sono appunto le repliche dei vari programmi in podcast sempre sul nostro sito al www.crmpiredi.it. Allora vi auguro un buon proseguimento con questa splendida giornata di sole e continuate a stare bene anche prossimamente, anche per il fine settimana, sperando che ci sia sempre questa temperatura e questo bel cielo, questo bel tempo, in modo che quando avremo un po' di tempo in più, il che succede spesso il fine settimana, potremo godere, potremo andare al mare, insomma potremo stare bene e godere appunto di questa temperatura, di questo periodo qua, che secondo me è il più bello. E va bene, ok, alla prossima. Dunque martedì prossimo su CRM Happy Radio insieme a Mary Catalano, che vi saluta e vi augura un felice proseguimento. Ciao a tutti quanti, fate i bravi, come dico sempre. Ciao ciao ciao ciao.